24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Borse europee ancora sotto pressione, Lagarde, l'economia peggiora. Mercati è sempre in affanno, differenziale BTP Bund sopra i 470 punti, Madrid perde il 3,14%, Milano il 2,53%. Il direttore del Fondo Monetario Internazionale, la crisi non riguarda più soltanto l'Unione, ma anche i paesi emergenti. Dal Consiglio dei Ministri italiano, pene più severe per chi sfrutta gli immigrati irregolari. Nuova risoluzione del Parlamento europeo, Israele deve togliere il blocco di Gaza. In orbita Meteosat 10, il satellite europeo controllerà meteorologia e clima. Calcio contro il gol fantasma, arriva la tecnologia. Benvenuti da Paolo Panceri a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. Continued policy action is needed to boost the recovery. È il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che ha parlato la scorsa notte da Tokyo, dove si trovava per un convegno. Lo scenario dell'economia mondiale sta peggiorando, ha detto Lagarde. Il fenomeno interessa non soltanto l'Europa, ma anche gli Stati Uniti, fino ai mercati emergenti come Brasile, Cina e India, che stanno rallentando in modo più o meno marcato. L'Europa ha fatto progressi, viene al discorso, ma occorre fare di più. E i dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti, peggiori delle aspettative, hanno trascinato al ribasso le borse europee. I dati sul lavoro americano di giugno, inferiori alle attese, affossano nuovamente i listini continentali, insieme all'allarme del direttore generale del Fondo Monetario, Christine Lagarde, sull'ulteriore rallentamento dell'economia mondiale. Così Parigi ieri ha perso l'1,9%, Francoforte l'1,88%, mentre Londra ha limitato le perdite a circa mezzo punto. A Piazza Affari il FTSE MIB ha ceduto il 2,53%, a picco i titoli bancari, con Mediobanca meno 6,2%, Mediolanum meno 5,6%, Unicredit meno 5,4%. Fiat meno 5,3% scivola insieme al comparto auto europeo, depresso dal calo delle vendite di Peugeot, meno 13% nel primo semestre. Si sgonfia ancora in Pregilo, meno 5,2%, mentre resistono le utility, molto penalizzate nei giorni scorsi, con Terna più 1,4% e Snam più 0,3%. Sul resto del listino crolla la Galassia Ligresti con Fonsai meno 17%, Milano Assicurazioni meno 10% e Premafi meno 8%. Dopo il mancato via libera di Consob, ai prospetti sull'aumento di capitale di Unipol meno 10% e Fonsai. Ceo Condina da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore. Sì, del Parlamento europeo ai Project Bond. Parte il progetto pilota da 230 milioni di euro. Il progetto fa parte del piano per la crescita concordato la settimana scorsa. Un comunista, anche se atipico, alla guida dell'Europa, è il presidente della Repubblica di Cipro. Si è trovato alla guida dell'Unione Europea in uno dei momenti più delicati della crisi economica che ormai da 4 anni attanaglia il vecchio continente. Questo è il destino di Demetris Christofias, presidente della Repubblica di Cipro, che ieri ha inaugurato ufficialmente il semestre di presidenza cipriota dell'Unione Europea. 66 anni, Christofias è stato eletto presidente nel suo paese nel 2008, lo stesso anno che ha visto Cipro adottare la moneta unica europea. Comunista, saranno la vita e la gente a dire se sono l'ultimo d'Europa, ha commentato il presidente Compagna. Christofias è in ottimi rapporti con Mosca e non nasconde di voler lavorare su due fronti per rilanciare l'economia della sua isola quasi affondata dalla crisi greca. Al momento l'ipotesi più accreditata è che Nicosia chieda all'Unione Europea solo i fondi destinati alla ricapitalizzazione delle banche e a Mosca quelli necessari per ridare ossigeno all'economia. Cifre esatte non esistono, ma le necessità finanziarie complessive di Cipro dovrebbero oscillare tra i 4 e i 10 miliardi di euro. La Troica è in questi giorni a Nicosia per controllare i conti pubblici ciprioti in vista del negoziato sulle condizioni alle quali concedere gli aiuti. Ma fonti vicine a Christofias avvertono vietato toccare le agevolazioni fiscali alle imprese. Considerato un elemento vitale per l'economia dell'isola, su questo Cipro non cederà. Roberta Pellegatta, Radio 24, il Sole 24 Ore. In Italia novità in arrivo contro chi sfrutta gli immigrati irregolari. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo che stabilisce pene più severe per chi assume e fa lavorare in modo irregolare un immigrato. Non solo, ma lo straniero clandestino che denuncia il suo datore di lavoro potrà ottenere il permesso di soggiorno. Infine, una norma transitoria in attesa del via libera europeo prevede la sanatoria per chi mette in regola il dipendente extracomunitario. A 11 anni dal G8 di Genova e dalle violenze nella scuola Diaz, al Ministero dell'Interno italiano arrivano le prime sostituzioni dopo le condanne in via definitiva dei poliziotti coinvolti nei pestaggi durante il summit. Ieri ha parlato anche il capo della polizia. Dopo le condanne, le scuse. 11 anni dopo la notte della Diaz e dopo l'azzeramento dei vertici dell'anticrimine, questo per il capo della polizia è il momento delle scuse. Scuse dovute soprattutto ai cittadini che hanno subito danni, marca Antonio Manganelli, ma anche a quelli che hanno visto in difficoltà la polizia per qualche comportamento errato. La conferma definitiva delle 25 condanne per falso è stato un terremoto doloroso al Viminale che ha portato alla sostituzione, vista la sospensione, di molti superpoliziotti. Così Gaetano Chiusolo sarà il nuovo capo della Direzione Centrale Anticrimine e Maria Luisa Pellizzari è stata nominata dirigente dello SCO. Hanno preso il posto di alcuni di quegli investigatori che hanno raggiunto non pochi risultati, come ricorda ora Manganelli, rinnovando il suo orgoglio per essere alla guida di chi quotidianamente, dice, garantisce sicurezza e democrazia. Un orgoglio che non intacca il rispetto della magistratura, ci tiene a precisare il prefetto, che approfitta proprio di questo momento per ricordare anche l'istituzione della scuola di formazione proprio per la gestione dell'ordine pubblico, una tappa di un percorso di revisione critica e confronto, ammette. Dopo le condanne e le scuse c'è dunque l'impegno futuro, 11 anni dopo la notte della Diaz. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Nuova risoluzione del Parlamento europeo di condanna per Israele, che deve togliere il blocco di Gaza, proteggere le comunità beduine in Cisgiordania e Negev e rispettare le leggi umanitarie internazionali verso i palestinesi. Inoltre Israele deve accettare il principio dei due stati con Gerusalemme capitale anche della Palestina. È in orbita Meteosat 10, il satellite europeo di nuova generazione destinato a controllare meteorologia e clima. Lanciato con un razzo Ariane 5 dalla base europea di Kourou nella Guyana francese, Meteosat 10 si è separato con successo dopo circa 30 minuti dal lanciatore e raggiungerà la sua orbita a circa 36.000 km, diventando operativo nei prossimi mesi. Ora lo sport con il calcio. Basta il gol fantasma. La tecnologia viene in aiuto al calcio per evitare discussioni e polemiche. La FIFA ha infatti approvato due sistemi per definire se il pallone ha varcato o meno la linea di porta, l'Okai, occhio di falco, e il gol ref. Il primo utilizza telecamere sistemate dietro la porta, il secondo si basa su un campo elettromagnetico che reagisce a 3 microchip inseriti nel pallone. Entrambi forniscono un segnale a un orologio al polso dell'arbitro in meno di un secondo. La FIFA utilizzerà i sistemi al prossimo mondiale per club a dicembre in Giappone. Musica in chiusura con l'avvio di un festival di portata europea e internazionale. È iniziata l'edizione 2012 di Umbria Jazz. Il festival si chiuderà il 15 luglio con il concerto di Sting. Tra gli ospiti Stefano Bollani, che ha suonato prima con Chick Corea e poi con il brasiliano Hamilton de Holanda. Altri nomi prestigiosi, da Sonny Rollins a Herbie Hancock, da Pat Metheny a John Scofield, fino a Enrico Rava, Erika Badu e Macy Gray. 6 concerti dedicati alla carriera di Gil Evans a 100 anni dalla nascita e infine l'omaggio a Thelonious Monk a 30 anni dalla morte. Sentiamo Stefano Bollani al microfono di Adriana Fracchia. La collaborazione con Chick è nata proprio grazie a un'idea di Umbria Jazz 3 anni fa, e non solo, ma si è sviluppata in una serie di concerti, 3 dei quali si sono svolti poi a Umbria Jazz Winter a Orvieto e che hanno dato vita a un disco live che abbiamo chiamato Orvieto, appunto, che è uscito per il CM, e adesso torniamo a Umbria Jazz, quindi diciamo è un percorso abbastanza logico ed è un'idea venuta al festival che ovviamente mi ha visto entusiasta. Io ho cominciato a scrivere mail a Chick, abbiamo cominciato a parlare di musica e ho scoperto che stavo dialogando con un bambino appassionato di musica, nonostante si parla invece di uno dei più grandi pianisti al mondo e che è arrivato anche alla bellezza di 70 anni. Nella seconda parte di questo concerto invece suonerai con Hamilton de Holanda. Sì. Brasiliano di Rio de Janeiro. Hamilton l'ho conosciuto un paio d'anni fa, stiamo suonando in duo abbastanza sia in Brasile che in Italia e vorremmo registrare un disco in duo perché abbiamo questa passione più ovvia per lui e più particolare per me per la musica brasiliana tout court, per cui suoniamo brani di grandi eroi della musica popolare brasiliana, quindi Caetano Veloso, Milton Nascimento, Chico Buarque, fino a degli choro antichi dei samba, ma anche dei brani italiani, anche dei brani originali, insomma stiamo sviluppando un repertorio comune. Lui è uno dei più grandi, forse il più grande virtuoso di questo strumento, che somiglia al nostro mandolino, ma che loro chiamano bandolini. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un saluto da Paolo Pancieri in studio e da Daniele Teruzzi, regia tecnica. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.